giro vedo il male, ossigenato sui capelli del sexista al mare, cavalcare onde da 30 centimetri è ridicolo, ma non per le gagnette che a vederle si bagnano. Io costretti in motorino piuttosto che in automobile, togli le differenze tra un soprammobile atteggiato come Fonzi. La vergogna passa a vedere tutti questi stronzi sulla TT con la camicia bianca. Sto pomeriggio scaricavi in banca e mica lavori in banca. È il male sputtanare lo stipendio per il cellulare, rimane poco per il risorgendo di comprare buste per portarsi tipo a letto. Il capogiro ce l'ho da 15 anni e faccio il giro tondo mano nella mano con i trammi. È da anni, cazzo, cazzo. Tenore Flavio Briatore, ma facci il favore che non schiacci la Gregoracci. Prendo a noleggio la tua faccia per farci una figura da coglione. Incendio la tua felpa, baci, abbracci. Esci con un capo firmato di stagione. Intanto il tuo capo ti ricorda che fai il muratore. 4 settimane per campare ad dare intonaco. Lo stesso che ti pippi e paga Franchi come un orafo. Ti si incula più taglio che Colombia. Sangue giù dal naso, la tua troia finto bionda. Tra una messa in piega sogni una messa in onda. Fake tronista, la tua fake vita mi rattrista. Mega sorriso al barista, sei re per una notte, ma lui di spalle sputa nel tuo cocktail. Mezzo ubriaco scoppi l'ex di un tuo amico. Intanto il tuo migliore amico scoppa la tua ex che ti ha tradito. Aspetta, lascia.